guai ai pastori, sperperatori e dissipatori del gregge del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò così dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete sperperato il mio gregge e l'avete disperso e non ve ne siete preoccupati. Eccomi, io mi preoccuperò di voi, delle vostre malvagità, delle vostre azioni, oracolo del Signore. Quanto a me, io radunerò il resto del mio gregge da tutti i paesi dove li ho dispersi e li ricondurrò al loro pascolo, e prolificheranno e si moltiplicheranno. Susciterò poi su di esso pastori che li pascoleranno e non temeranno, né si spaventeranno, né alcuno verrà a mancare. Oracolo del Signore. Ecco, giorni vengono, oracolo del Signore, in cui io susciterò a Davide un germe giusto e regnerà qual re. Sarà saggio ed eserciterà diritto e giustizia nel paese. Ai suoi giorni sarà salvato Giuda e Israele dimorerà con sicurezza. Questo poi è il nome con cui sarà chiamato, Signore giustizia nostra. Perciò ecco che vengono giorni, oracolo del Signore, nei quali non diranno più, per la vita del Signore che ha ricondotto i figli di Israele dal paese di Egitto, bensì per la vita del Signore che ha fatto uscire e ricondotto il seme della casa di Israele dal paese del nord e da tutti i paesi dove li aveva dispersi. Essi riposeranno nel loro territorio. Contro i profeti. Si spezza il mio cuore dentro di me, si slogano tutte le mie ossa. Son divenuto qual uomo ubriaco e qual uomo sopraffatto dal vino a causa del Signore, a causa delle sue parole sante. Sì, il paese è pieno di adulteri. A causa della maledizione è in lutto il paese. Si seccano i prati del deserto. La loro corsa è perversa e la loro forza non è retta. Anche il profeta e il sacerdote sono divenuti empi. Perfino nella mia casa trovo la malvagità loro. Oracolo del Signore. Perciò la loro strada sarà per loro stessi come luogo sdrucciolevole. Nelle tenebre saranno dispersi e cadranno in esse, poiché manderò contro di loro la sventura nell'anno del loro castigo. Oracolo del Signore. Anche tra i profeti di Samaria ho visto scempiaggini. Hanno profetizzato per Baal e hanno traviato il mio popolo, Israele. E tra i profeti di Gerusalemme ho visto nefandezze, adulterare e camminare nel falso. Essi rafforzano le mani dei malfattori, perché non si ritiri alcuno dalla sua malvagità. Son divenuti per me tutti come Sodoma e gli abitanti suoi come Gomorra. Perciò così dice il Signore degli eserciti contro i profeti. Ecco, io vi nutrirò di assenzio e vi darò a bere acqua avvelenata, perché per colpa dei profeti di Gerusalemme si è sparsa l'impietà su tutto il paese. Così dice il Signore degli eserciti. non date ascolto alle parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi fanno credere cose vane. Visioni del loro cuore vi annunciano e non da parte del Signore. Essi dicono a chi mi disprezza: ha detto il Signore, avrete salvezza. E a chiunque cammina nella durezza del proprio cuore dicono: non verrà contro di voi sventura. Infatti, chi assisté al consiglio del Signore, lo vide ed ascoltò la sua parola? Chi ha fatto attenzione alla sua parola e l'ha compresa? Ecco, la burrasca del Signore scoppia furiosa, burrasca turbinante si aggira sulla testa degli empi. Non si ritirerà l'ira del Signore finché egli abbia compiuto e realizzato i disegni del suo cuore. Al termine dei giorni lo comprenderete appieno. Io non ho inviato questi profeti, ma essi corrono. Non ho parlato a loro, ma essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero annunciato la mia parola al mio popolo, l'avrebbero fatto ritirare dalla sua condotta malvagia e dalla malvagità delle sue azioni. Son forse un Dio da vicino, oracolo del Signore, e non un Dio da lontano? Può nascondersi alcuno nei nascondigli che io non lo veda? Oracolo del Signore, forse che i cieli e la terra non li riempio io? Oracolo del Signore, ho inteso ciò che han detto questi profeti che profetizzano in nome mio, menzogna, dicendo: ho sognato, ho sognato. Fin quando dovrà durare ciò nel cuore di questi profeti che profetizzano la menzogna e profetizzano l'inganno del loro cuore? Essi pensano di far dimenticare al mio popolo il mio nome con i loro sogni, quelli che ognuno racconta all'altro come i loro padri hanno dimenticato il mio nome per Baal. Il profeta che ha avuto un sogno, racconti un sogno, e chi ha avuto la mia parola, annunzi la mia parola con verità. Cos'ha in comune la paglia con il frumento? Oracolo del Signore, non è forse così la mia parola, qual fuoco, oracolo del Signore, e qual mazza che spezza la roccia? Perciò eccomi contro questi profeti, oracolo del Signore, che rubano le mie parole l'un l'altro. Eccomi contro questi profeti, oracolo del Signore, che occupano la propria lingua a proferire oracoli. Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri, oracolo del Signore. Li raccontano e fanno deviare il mio popolo con le loro menzogne e le loro temerità, mentre io non li ho inviati, né ho dato loro ordini, né sono di alcuna utilità per questo popolo. Oracolo del Signore. Se pertanto questo popolo, o un profeta, o un sacerdote ti interrogherà: qual è l'incarico del Signore? Risponderai: voi siete il carico e vi ho rigettato. Oracolo del Signore. Se poi il profeta, o il sacerdote, o la gente dirà: incarico del Signore, io punirò quell'individuo e la sua casa. Così direte uno all'altro e ognuno al proprio fratello. Cosa ha risposto il Signore? E cosa ha detto il Signore? Ma voi non userete più carico del Signore, altrimenti un carico sarà per ognuno la propria parola, e pervertirete le parole del Dio vivente, Signore degli eserciti, Dio nostro. Così si dirà al profeta: cosa ti ha risposto il Signore, e qual è la sua parola? Ma se direte in carico del Signore, allora così dice il Signore: giacché voi dite questa parola in carico del Signore, per questo eccomi. Io mi dimenticherò di voi e rigetterò completamente voi e la città che io ho dato a voi e ai vostri padri dinanzi al mio cospetto, e vi renderò una ignominia perpetua ed una vergogna che non si dimentica.